passare al bar prima di tornare a casa, a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, anche oggi in diretta in questo lunghissimo ponte del 2 giugno con i numeri di telefono sempre a vostra disposizione per intervenire e commentare in diretta i fatti del giorno. 800 24 00 24, il numero verde, sms 349 238 6666, la zanzara etta radio24.it per le vostre mail, titoli del TG2. Il capo dello Stato, nel messaggio alla vigilia del 2 giugno, chiede più coesione politica e sociale per superare la crisi e fare le riforme. Per l'Abruzzo dice avviare presto la ricostruzione. Il presidente del Consiglio Berlusconi al TG2. La sinistra ha sostituito i programmi politici di cui è del tutto priva con il pettegolezzo stile novella 2000. Tragedia nell'Atlantico, disperso il volo Air France Rio Parigi con 228 persone a bordo, tra questi almeno 10 italiani, ancora mistero sulle cause. C'erano forti turbulenze, l'Airbus forse è colpito da un fulmine. Un rapinatore è morto e uno ferito nel tentativo di assalto di un furgone portavalori a Roma, ferita una delle guardie giurate che hanno reagito alla rapina, fuggiti gli altri banditi. Dopo Chrysler anche General Motors in bancarotta controllata. Abbiamo evitato un collasso devastante, dice il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, con Fiat Chrysler più forte e competitiva. Ed erano i titoli del TG2. Andiamo a sentire Italia 1, studio aperto. Sciagura sull'Atlantico, sparito un aereo in volo da Rio de Janeiro a Parigi. Siamo entrati in una zona di forte turbolenza, le ultime parole del pilota tre ore dopo il decollo. Sette italiani fra i 231 passeggeri a bordo, per loro nessuna speranza, affermano dalla Francia, aggiornamenti in diretta. Caos rifiuti a Palermo, cumuli di spazzatura nelle strade, roghi notturni, rischio di emergenza sanitaria. Vertice in prefettura con il capo della protezione civile Bertolaso, il premier Berlusconi garantito l'impegno finanziario del governo per la soluzione del problema. Una bimba di 8 anni molestata alla stazione di Poggio Reale a Napoli, ha arrestato lo zio, incastrato dalle telecamere di sorveglianza e già in carcere. In casa sua trovati DVD e riviste pedopornografiche. Condannato a 30 anni Michele Fusaro, il falegname che rapì e uccise Iole Tassitani, figlia di un notaio di Castelfranco Veneto. In aula la rabbia e il dolore della sorella, la massacrata, l'ha fatta a pezzi e non gli danno l'ergastolo. Che volare, cantare. Oh, oh, oh. Ogni tanto torna la questione dei voli di Stato. Ricordate le vicende Mastella, Rutelli, peraltro dal punto di vista giudiziario totalmente archiviate, segnala oggi uno degli avvocati di Rutelli. A un certo punto infiammano di nuovo l'opinione pubblica. In questo caso, chi è stato portato a Villa Certosa? Con quali aerei? Sono o no triplicati i voli di Stato da un anno a questa parte, cioè da quando Berlusconi è tornato al governo, nonostante il giro di vite, così sembra, che è stato impresso sulla questione dei voli di Stato che costano un sacco di quattrini durante il governo Prodi? Cercheremo di verificarlo più avanti nella trasmissione. Intanto la sinistra passa all'attacco. Vi leggo alcune agenzie. Il triplicamento dei voli di Stato, il loro uso da parte di chi non ne ha titolo, pone seri problemi sulla moralità e l'etica pubblica di chi ci governa. Lo ha detto in questi giorni Roberta Pinotti del Partito Democratico. E anche Rosa Galipari della Commissione Difesa del Partito Democratico dice: se sono stati veramente usati aerei di Stato per trasportare signorine compiacenti e bardi di corte per animare le feste del Presidente del Consiglio, ci troviamo di fronte a una vicenda indegna di cui i protagonisti devono rendere conto al Paese. Proprio ieri su Repubblica Mariano Picella, che tutti voi conoscete come il amico di Berlusconi, cantautore, cantante, non so come chiamarlo, insomma, cosa ha detto a Repubblica? Ma lei l'ha usato mai un volo dell'aeronautica militare per andare a cantare per Berlusconi? Certo, qualche volta che ho seguito il Presidente del Consiglio sono andato pure con l'aereo di Stato, ma sempre insieme a lui, non vedo il problema. Insomma, che male c'è? si ricorda in quali occasioni, ma non so, ci sono stati dei momenti in cui il presidente doveva andare in giro per qualche occasione, per dei comizi, e mi ha chiesto di accompagnarlo. Non ci vedo alcuna anomalia. E in Sardegna lei come ci va? Quando il presidente ci chiama, io, il cuoco Michele e altri collaboratori ci andiamo con l'aereo privato. Privato nel senso di una compagnia di linea? No, privato di Berlusconi. Apicella e Berlusconi. E voglio che ti voglio sulla te. E mocca tu stai qua. Non saccia caccia fa. Si daccia fa. Senti che sta canzone quando tu passavi sto guaglione. Sul tanto nanna fa. Dicendo piano piano. Dicendo dolce dolce. E va bene, la politica italiana è questa in questi giorni, sfogliando le pagine dei giornali, non so cosa ne pensate, ma insomma la politica italiana è molto di queste cose, molte discussioni intorno a vicende come i voli di Stato di Mariana Picella, per carità, una cosa molto importante, l'uso dei voli di Stato, non voglio assolutamente minimizzarla, e poi tutte le cose di cui abbiamo parlato abbondantemente negli ultimi 15 giorni. Berlusconi evidentemente ha deciso di cambiare strategia e di parlare centellinando i suoi interventi. Questa settimana, sul finire di questa settimana, sarà Matrix, come da lui stesso annunciato. Intanto ha iniziato con il TG2, prima con Radio 2 questa mattina da Barbara Palombelli, poi con il TG2, e ha puntato soprattutto su una frase: l'opposizione vuole fare il suo mestiere come novella 2000. Sentite. Io penso soprattutto che siano stati i giornali della sinistra che hanno riempito il vuoto dei programmi della sinistra con il gossip e con una calunnia. E mi pare che la carta dei valori della sinistra sia diventata novella 2000. Questa sinistra non ha nulla da proporre, sa solo cavalcare le calunnie e violare la privacy altrui, e sono sicuro che questa campagna di invidia e di odio sarà per loro un boomerang. Novella 2000, su questo dal punto di vista mediatico punta Berlusconi. 18:45, traffico, torniamo subito. Bene, 18:47, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Sempre sulla questione mediatica delle reazioni di Berlusconi a quello che accade, oggi Berlusconi, ripeto, ha deciso evidentemente di parlare, lo ha fatto con Radio 2 nella trasmissione di Barbara Palombelli 28 minuti, poi con un'intervista al TG2 ha puntato molto su quello che in realtà scriveva nei giorni passati il giornale, cioè la sinistra passa all'attacco utilizzando criteri da novella 2000 più che da proposta politica. Se l'è presa naturalmente anche con la stampa estera, o meglio, dopo l'ennesimo editoriale del Times, quotidiano britannico di proprietà di Rupert Murdoch, che oggi ha sferrato un attacco molto violento nei confronti del Presidente del Consiglio. Così ha reagito Berlusconi. La stampa estera è in collegamento con i giornali della sinistra italiana. I giornali stranieri sono in collegamento diretto con i giornali della sinistra italiana, che fanno una azione di spinta per ottenere attenzione alle nostre vicende viste dalla loro parte. A un certo punto nei giorni scorsi Berlusconi aveva detto che avrebbe risposto a tutto, chiarirò tutto, prima addirittura annunciato un intervento in Parlamento. Adesso ha deciso che non c'è più nulla da spiegare. Io ho già chiarito tutto. Lasciamo, non c'è niente di vero. Privato. Veline non vero. Minorenni neanche. Ma ci immagini, non vero, assolutamente non vero, completamente non vero. E terza cosa, l'altra cosa dei soldi, come si chiama? L'avvocato inglese Mills. Assolutamente non vero, quindi calunnie pure che si ritorceranno contro chi le ha agitate. Questo Berlusconi oggi alle 18:49, 800 24 00 24, il numero per intervenire. Giancarlo dalla provincia di Vercelli, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Io volevo intervenire su un'altra questione, ma dopo l'ultima cosa che ho sentito volevo anche ricordargli questo fatto. Riferito alle lettere, a quello che scrivono i giornali inglesi, americani generalmente su Berlusconi. Queste sono storie abbastanza vecchie. Io davanti un articolo dell'Ansa che avevo caricato da internet nella campagna elettorale, dell'anno precedente, dove Times diceva Berlusconi non merita un'altra chance. Quindi queste sono cose abbastanza vecchie, secondo me è risaputo che all'estero generalmente Berlusconi non ha un grande apprezzamento. Ma a parte questo, il mio intervento era in funzione a questo. Allora, su questo sono d'accordo con lei, Giancarlo. Tant'è che non si capisce l'argomento di discussione su quello che scrive il Times, perché la traduzione che viene stata fatta oggi dell'articolo, non ho letto l'originale, è questa: l'aspetto peggiore del comportamento di Berlusconi non è il fatto che sia un buffone sciovinista e nemmeno che si accompagni con donne di 50 anni più giovani, abusando della sua posizione per offrire loro lavoro come modella, assistente personale e anche, suona assurdo, candidato al Parlamento europeo. La cosa più scioccante è l'assoluto disprezzo con il quale tratta gli italiani. Poi l'anziano libertino può trovare divertente o anche temerario fare il playboy. Insomma, sono una serie di considerazioni che francamente con la politica hanno poco a che fare, comunque con aspetti politici. D'altra parte, chi oggi prende il Times come esempio, no, assoluto, in tante altre vicende il Times viene invece trattato con disprezzo come un giornale conservatore. Così va avanti la discussione politica in Italia. Dica, Giancarlo. Non mi sembra un giornale schierato come potrebbe essere The Guardian, dove magari potrebbe esserci un filo laborista e quindi una piccola tendenza verso la sinistra. No, ma non è questione di destra e di sinistra. In Gran Bretagna, no, queste differenze non è che poi contino molto. Il Times è un giornale che ha una linea conservatrice, tendenzialmente conservatrice, è di proprietà di Rupert Murdoch, adesso non voglio fare assolutamente dietrologie. Nei confronti di Berlusconi non è mai stato tenero nemmeno nel passato il Times, sia chiaro. Un giornale obiettivo, oggettivo, e quindi poi vabbè. Ma non esistono giornali obiettivi, oggettivi, esistono giornali che prendono delle posizioni per i motivi più svariati, spesso perché alla proprietà conviene prendere una certa posizione, spesso perché il direttore di quel giornale è convinto di una certa campagna, per tanti motivi vengono prese delle posizioni all'interno dei quotidiani. Questo Times che io le sto facendo riferimento sì, appunto a febbraio dell'anno scorso, del 2008, sì, lui dice in questo articolo, lo leggo velocemente, dove dice che Berlusconi ha agito non per il beneficio dell'Italia, ma soltanto per il suo, e fa riferimento partendo dicendo: il quotidiano conservatore britannico Times è contrario alla possibilità di un ritorno di Berlusconi al governo. Un'altra chance è il titolo di commento di questo Maddox che il giornalista era scritto. La principale linea politica. Vabbè, ce ne faremo una ragione che il Times ha questa linea politica. Insomma, gli italiani se ne sono fatti una ragione. Non sono cose che non hanno alcuna influenza sulla vita politica italiana. Certo, secondo me Berlusconi sbaglia a reagire in quel modo, dicendo giornali insufflati dalla sinistra, condizionati dalla sinistra italiana. Questa è un'altra stupidaggine, non c'entra niente la sinistra italiana. A leggere le cronache che si fanno, probabilmente succede anche a parti invertite, le cronache che si fanno sull'Italia di alcuni giornali, insomma, non bisognerebbe leggerli più alcuni giornali, cioè sono di una superficialità imbarazzante. Giancarlo, di cosa voleva parlare? Io volevo parlare di questo invece, riguardo il caso Noemi. Allora, oggi mi sembra che il fidanzato abbia tirato un pochettino indietro e si sia scusato di quello che ha detto, però la settimana scorsa, quando lui è uscito con le sue esternazioni, chiamiamola come vogliamo, perché poi dalla parte di Berlusconi non sono considerate diverse che non esternazioni, però è stata considerata una persona con un curriculum, diciamo, giudiziario non di più affidabili. E quindi qualcuno dice: beh, ma come possiamo fidarci di una persona con un curriculum giudiziario dove è stato condannato? E quindi non assolutamente affidabile. Sì, Giancarlo, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Io, da parte mia, ho detto... Il racconto di questo Gino Flaminio non ha nulla a che vedere con il passato più o meno criminale dello stesso personaggio. No, ma Cruciani, ma mi faccia finire. Finisca. Non prenda questo paragone, paragonare un Mariuolo con un'altra persona, ma il precedente che noi abbiamo con i vari casi, processi, Oliveriam, caso Smè, sì, Lodo Mondadori, caso Lentini, caso Mills, me ne mancano almeno una, sì, 5-6, quindi dico: che credibilità abbiamo una persona che comunque rappresenta tutta l'Italia, ci governa, ci amministra, dico, se l'altro può avere poco affidamento, insomma. Ho capito, la ringrazio. Dennis, provincia di Vicenza, buonasera. Buonasera. Dica. Salve. Voglio rialzarmi un po' a quello che aveva detto Franceschini nei giorni scorsi riguardo all'educazione dei figli. Sì. Dica, dica, forse, Dennis. No, forse non ci stiamo accorgendo, ma sono anni che Berlusconi educa i nostri figli. Attraverso la televisione. Ma a me non risulta, Dennis. Francamente non mi risulta. Guardi, io la mia educazione risale appunto praticamente agli anni in cui è esplosa la televisione commerciale e tutto mi sento tranne che influenzato da Berlusconi, abbia pazienza. Posso fare una domanda? Lei ha figli? Sì, ho una figlia. Allora? E che tipo di televisione guarda? No, è troppo piccola forse, no? Ancora non guarda i cartoni animati. Male. Io ho due figli adolescenti, no? Canale preferito Italia 1, no? E allora? Ha mai prestato attenzione un po' a Italia 1? Sì, non mi pare una televisione che inculca come dire insegnamenti criminali alle persone. Beh, insomma Dennis, che vuole spenga la televisione, cambi canale, faccia cambiare canale, bruci la televisione, la butti dalla finestra, metta un codice su Italia 1. Cosa vuole che le dica? Cosa mi vuole dire? Che Berlusconi in che modo influenza l'educazione dei nostri figli? Scusi. Guarda, io purtroppo non ci riesco. Purtroppo non ci riesco a raccomandare fino a quel punto. Mi ritengo fortunato quando siamo a tavola di guardare il telegiornale. Dennis, lei è preoccupato per l'educazione dei suoi figli, che Berlusconi possa influenzare l'educazione dei suoi figli? Questo mi sembra veramente una roba al di là del bene e del male, però ognuno ha le fissazioni che ha, ognuno ha le paure che ha. 18, anche se raccontano sempre qualcosa queste paure, 18.57, giornale radio delle 19, 800 24 00 24. La Zanzara. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 19:17 minuti, 800 24 00 24. Iniziamo invece con i titoli, con questo servizio di Sky. Berlusconi, attacco violentissimo del Times. Personali e familiari e anche l'uso degli aerei di Stato. La reazione di Berlusconi è controllata ma netta. Sono in collegamento diretto con i giornali della sinistra italiana che fanno una azione di spinta per ottenere attenzione alle nostre vicende viste dalla loro parte. Sono proprio cose ispirate, insufflate dalla sinistra italiana e dai suoi giornalisti. Accanto a lui tutta la maggioranza e dal vicepresidente. Questa è la versione di Berlusconi sull'ennesimo attacco di un giornale straniero, in questo caso del Times, un attacco violentissimo, come lo definisce la stessa Sky. Il Times e Sky hanno la stessa proprietà. Alle 19:18 i titoli del TG3. Airbus Air France con 228 persone a bordo in volo tra Rio de Janeiro e Parigi scompare dai radar all'improvviso. Misteriose le cause del disastro. Almeno 10 italiani a bordo dell'aereo inghiottito, 3 sono del Trentino, nessuna speranza di salvezza. General Motors riparte dalla bancarotta, Obama maxi prestito per salvarla, Fiat guida Chrysler e porta a New York la nuova 500. Napolitano, più coesione nazionale contro la crisi, rispetto per le istituzioni, avviare le riforme e la ricostruzione in Abruzzo. Berlusconi, veline, minorenni e caso Mills, tutto falso, è una campagna di odio, la sinistra strumentalizza anche i giornali stranieri. Voli di Stato per le feste private del Premier, interrogazione di PD e Italia dei Valori, Franceschini basta con le promesse elettorali non mantenute. Emergenza rifiuti, Bertolaso a Palermo per i primi provvedimenti, protestano i dipendenti dell'AMIA e denunciano spese ingiustificate. Razze, uno spettacolo contro tutte le paure in scena a Verona con albanese Paolini di Tizzetto e il giornalista Gian Antonio Stella. Va bene, erano i titoli del TG3, sentiamo i titoli di Sky TG24. Brasile, Airbus dell'Air France scompare nell'Atlantico con 231 persone a bordo. La Farnesina, sono 10 gli italiani tra i passeggeri, 3 sono di Trento. Le cause del disastro, forse un'avaria nella zona, c'era una forte turbolenza. 2 giugno, l'appello di Napolitano sulle riforme, coesione e rispetto delle istituzioni. Il Times contro Berlusconi, il Premier, stampa estera istigata dalla sinistra. General Motors, ufficializzata la bancarotta, Obama dice Chrysler più forte con Fiat. Palermo nel caos rifiuti, arriva Bertolaso, inchiesta della procura sulle spese dell'AMIA. Roma, assalto a un portavalori, nella sparatoria morto un bandito e un altro ferito. Donna uccisa in albergo vicino Cuneo, forse una rapina all'origine del delitto. Panchine, il Milan presenta Leonardo Ancelotti al Chelsea con contratto milionario. Era Berlusconi senza Apicella, ma risentiamolo con Avanti. Apicella cantava, suonava la chitarra, sentiamolo invece Apicella. E voglio che te voglio sulla te, e monca tu stai qua, tu saccia caccia fa, si daccia fa, senti che sta canzone quando tu passavi sto guaglione sul tanto nanna fa, dicendo dicendo dolce dolce amore, amore mio. Questo Apicella con Berlusconi, perché Apicella è al centro di un nuovo scandalo. Cantastorie, cantanti e veline sono state portate con aerei di Stato a Villa Certosa, sì o no? Insomma, vedremo questa vicenda, se sarà chiarita. C'è addirittura un'interrogazione, una, pare un inizio di inchiesta da parte della Procura della Corte dei Conti. Breaking news. Novità da Rio de Janeiro sull'aereo dell'Air France precipitato. Un portavoce della compagnia ha reso note le nazionalità dei 216 passeggeri a bordo dell'Airbus A330. Vi erano, ha detto leggendo la lista, 80 brasiliani e 73 francesi, 18 tedeschi, 9 italiani. Dunque il numero degli italiani sarebbe di 9, mentre l'unità di crisi della Farnesina aveva parlato di 10 connazionali coinvolti, poi 6 statunitensi, 5 cinesi, 4 ungheresi, 2 spagnoli, 2 britannici e altri di altre nazionalità. Il GR torna alle 21 con ulteriori aggiornamenti. Bene, 19:23, oggi naturalmente terremo d'occhio anche questa situazione ben più drammatica delle cose che vi stiamo raccontando. 800 24 00 20 4 per chiamarci in diretta. Cosa sentiamo adesso? La situazione incredibile che sta vivendo Palermo, dove c'è un'azienda municipalizzata per la nettezza urbana che è praticamente in bancarotta, è stata salvata già da un intervento del governo, ha un numero di addetti pazzesco rispetto ed esorbitante rispetto ad altre città, se paragoniamo il numero di abitanti, problemi sindacali enormi, assunzioni fatte da diverse amministrazioni, quelle della sinistra prima, poi continuate dal centrodestra, che hanno aumentato a dismisura appunto il numero di dipendenti, e nonostante questo parco enorme di persone che lavorano per l'AMIA, così si chiama, c'è una crisi spazzatura a Palermo. Sentite questo servizio, incredibile. Sono rimasti per oltre l'80% dentro i depositi a disposizione dell'azienda, lo fanno da una settimana in un'applicazione rigida della legge sulla sicurezza del lavoro. Continua il braccio di ferro tra sindacati e AMIA, l'azienda municipalizzata per la raccolta rifiuti, e per le strade di Palermo si calcolano 4 tonnellate di immondizia che, dicono gli esperti, si possono raccogliere in una decina di giorni solo se scendono in campo anche la protezione civile e l'esercito. Cammi senza pulirle, ruote lisce, siamo in rischio quando saremo anche a Ballo Lampo di recare di Dan Capo. Ci sono frecce rotte, sportelli dentro, la puzza dentro che non si possa. Questo è un rotino. Questo è un rotino, come voi vedete. fare una ruota di scorta c'è l'asso mezzo. No. Vogliamo i mezzi efficienti. Io non voglio che esco e tampono un padre di famiglia. E in città è stata un'altra notte di incendi di cassonetti con più interventi dei vigili del fuoco e anche l'arresto di 2 giovani piromani. La situazione a Palermo che è drammatica, sentiamo Sky in diretta. Non si sa ancora quanto durerà, noi saremo comunque qui per raccontarvelo. Per il momento da Palermo è tutto, la linea può tornare allo studio. Si stava raccontando prima dell'emergenza rifiuti, pare che ci vogliono, se dovessero intervenire insieme anche la protezione civile, eccetera, eccetera, ci vorranno almeno 10 giorni per liberare le strade di Palermo. Rispunta fuori anche un'inchiesta che è in corso da parte della magistratura sulle spese pazze della precedente amministrazione dell'AMIA. Cene a base di salmone e martini da quasi 500 euro al ristorante Alfanar di Abu Dhabi, viaggi in business class, pernottamenti da 550 euro a notte negli alberghi più esclusivi di Dubai e Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, l'Hyatt Hotel, l'Hilton, lo Sheraton, hotel di lusso, Aragosta e pranzi da 800 euro. Le missioni d'oro a Dubai dell'era Galioto, che era il vecchio presidente dell'AMIA, 22 missioni volute dall'allora presidente Galioto, ora senatore del PDL. C'è un'inchiesta in corso dopo varie denunce. Alle 19:26 andiamo a sentire Lucio da Verona. Buonasera. Qualche ascoltatore scrive: lei ha sottolineato che Sky e il Times hanno lo stesso padrone. Io ho semplicemente sottolineato che il Times è di proprietà di Murdoch e anche Sky, ma Sky non c'era nessun riferimento malizioso e malevolo come voi fate intendere. Lucio, prego. Buongiorno, buonasera. Lei, caro Cruciani, si incazza molto quando le dicono questo giornalista è di destra, questo giornalista è di sinistra, questo non è indipendente, questo è dipendente della parrocchia Berlusconi. E lei si incazza molto su queste cose. Però, siccome io come cittadino invece mi sembra di aver capito alcune cose, io sono preoccupato che lei non l'abbia capito. Cioè, nel senso che io, così con poca passione politica, ho capito che c'è differenza da fra Belpietro e Montanelli, pur due di destra. C'è una differenza enorme, voglio dire, perché uno ha saputo mettere in discussione il suo padrone, metterlo in discussione che non poteva entrare in politica, poi ha testimoniato anche che gli aveva confidato che se entrava in politica per non finire in carcere, ma comunque essere di destra o essere di sinistra, essere dipendenti o essere indipendenti, vuol dire stabilire, e ci sarà un motivo, che nessun paese d'Europa questo signore può governare e dirlo. Lucio, ma stiamo parlando di che cosa? No, stiamo parlando che lei si incazza quando uno dice questo è di destra, così. No, io non credo a queste categorie, le dice. Ma essere di destra o essere di sinistra, diceva Giorgio Gaber, era Benigni che lo diceva. Siamo finiti a Giorgio Gaber e a Benigni. Cerchiamo di chiarirci le idee, Lucio, torniamo tra un po', torniamo tra un attimo, mi sembra siamo nel campo della confusione più totale, però per carità, lei ha tutto il diritto di intervenire, di dire la sua, non ho capito assolutamente nulla, però ci sentiamo dopo la borsa, 800 24 00 24. Eccoci di nuovo in diretta alle 19:33 minuti, 800 24 00 24. Siamo in collegamento con gli ascoltatori, naturalmente, come ogni sera, con Lucio da Verona. Allora, Lucio, lei dice c'è una differenza tra Belpietro e Montanelli. Vabbè, questo va da sé, evidente, poi ognuno ha le preferenze che ha, no, Lucio? No, sono tutti e due di destra, però uno ha messo in discussione l'entrata in politica perché era incompatibile. Perché vede, si è liberi o non si è liberi, ci sarà un motivo perché nessun paese d'Europa è permesso che uno che ha queste caratteristiche possa... Vabbè, ma lei sta facendo un discorso politico. Secondo lei Berlusconi è incompatibile, punto, d'accordo. Insomma, è un discorso che si trascina da 15 anni. Dove vuole arrivare con questa discussione? Una volta, caro Cruciani, ho chiesto a lei... E mi ha detto, cosa devo dire, che è incompatibile? E lei me l'ha ripetuto per 3-4 volte. E poi ha mandato in onda anche la mia voce che diceva questo signore non può governare, è incompatibile. Ma allora, la libertà, la libertà di un giornalista è quella di poter dire perché è così, perché è incompatibile questo signore. Non succede in nessun paese d'Europa. Lucio, è una discussione che francamente a me ha un po' stancato. Se lei è ancora fissato col Berlusconi compatibile o incompatibile, sarà un problema suo. Abbia pazienza, è una discussione che ormai non ha più senso fare dopo tutti questi anni, o ha ancora senso farsi, porsi questo problema della, della compatibilità e l'incompatibilità. La compatibilità è decretata, la compatibilità viene segnalata dalle leggi, non ci sono le leggi. Che... No, caro signor Cruciani, in Germania non c'è la legge, ma è un problema etico, non può farlo. Cosa vuole, come vuole che le risponda, Lucio? Secondo lei Berlusconi è incompatibile? Secondo me, io le ho già detto, non è più un discorso di attualità quello di Berlusconi, compatibile o incompatibile, anomalia o non anomalia, non è più un discorso di attualità. Il voto è truccato così? È truccato. Il voto è truccato, caro signor Cruciani. E allora che cosa bisogna fare? Secondo lei il voto è truccato? Bisogna mandarlo a casa. Lo vado a casa con le elezioni, si mandano a casa le persone. No. E come se no? È truccato, come si fa a mandarlo a casa con le elezioni? E come si fa allora? Il voto è... Come si fa? È vostro il compito. No, ma ho capito, Lucio. Secondo lei, come si fa a mandare a casa? Dato che con le elezioni, secondo lei, essendo il voto truccato, non si riesce a fare. Come si fa? Di questo signore. Ho capito, come si fa materialmente a mandarlo a casa? Mettiamo che la situazione sia quella che descrive lei. Con le elezioni non si può fare, come si fa allora? Si fa con una campagna di stampa con l'incompatibilità di questo signore di governare, perché non succede in nessun paese. Vabbè, d'accordo, Lucio, lei è rimasto indietro 15 anni fa, però ognuno rimane indietro anche a 30, 40 anni, figuriamoci lei che è rimasto a 15 anni, va benissimo. Non dico che sia una situazione anomala. Ce ne sono tante di situazioni anomale. La ringrazio molto. Paolo da Pisa, buonasera. Buonasera a lei, dottore. Dica. Volevo aggiungere qualcosa sul caso Apicella. Io sono... Sì, e poi non è solo il caso Apicella, per carità. Abbiamo preso questa intervista a Repubblica, sì, ma certo, pare che in questi voli ci siano anche altre persone, oltre ad Apicella, varie persone che vanno a Villa Certosa con l'aereo dell'aeronautica militare, non per motivi istituzionali, diciamo così. Poi bisognerà vedere, controllare, capire... Certo. Io sono un maresciallo dell'aeronautica militare. Sì. Ho lavorato per anni a Linate e ho visto di cotte e di crude. Non è il Berlusconi che sta abusando della situazione o del volo, della Picella. È tutta la casta che da... Io dal 75 che sono in aeronautica e ne ho viste in aeroporto di tutti i colori. Da Craxi in avanti, arrivare Craxi alle 18.05 a Linate, alle 18.10 arrivare chi? De Michelis. Da dove? Da Ciampino. 5 minuti di differenza, uno partiva da Ciampino alle 18 con un DC9 che porta 100, 110 persone con 6 persone. Mm. Alle 18.10 arrivava... Paolo, mi sembra che sono tempi superati questi qua, no? Sì, Craxi, De Michelis, cioè, oppure no, secondo lei? Tutti i personaggi che sono arrivati in cima alla casta hanno abusato di tutto, non c'è destra, non c'è sinistra, non c'è centro. C'è stato un abuso dei voli di Stato, secondo lei? Certo, assolutamente sì. D'accordo. Io ho visto i piani di volo, partenza da Ciampino, di personaggi dello stesso partito, neanche di partiti diversi, che poi si può dire magari mi è antipatico, di un'altra... Ho capito. Dello stesso partito arrivavano a 10 minuti di distanza da Ciampino a Linate con due aerei, un DC9 e un Mister 20, perciò sono aerei capienti, e scendevano 20 persone in due aerei diversi. E questo per dire, da Michelis in avanti, che io ho frequentato Linate, ne ho viste da sinistra, Prodi, D'Alema, ho visto di tutti, cioè non sei. Vabbè, guardi, tra l'utilizzazione e l'abuso poi naturalmente c'è un mare magnum, bisogna vedere la semplice utilizzazione per necessità dei voli di Stato, non è che si possano sopprimere, eliminare, e l'abuso, insomma il discrimine deve essere anche, dov'è il discrimine, quando è che si passa, si oltrepassa il confine. La ringrazio, Paolo. Dove andiamo? Gianluca da Milano, buonasera. Buonasera signor Cruciani. Dica. Rapidissimo, non entro in discussione inutile, ormai è tutta la serata che ne discutete. Volevo solo far notare una cosa. Io sono un lettore di Corriere della Sera, Repubblica, tutti i quotidiani italiani. Non ho la televisione perché non la guardo. Mi ha stupito un'affermazione che ho sentito oggi alla vostra radio del Premier, il quale ha detto che la sinistra utilizza i giornali come novella 2000 per attaccarlo e che le sue foto non si possono vedere, le sue foto perché è privacy. stranamente i giornali di proprietà di famiglia che ne conosciamo oggi escono, ho visto sfogliando in edicola, con le foto della moglie e del presunto amante che passeggiano nella villa, ed entrambi i giornali, anzi Libero in particolare, era uscito con la foto della moglie in déshabillé quando ancora faceva l'attrice di teatro. Mi chiedo, è possibile una disparità tale tra due personaggi per cui la donna debole in questo caso, perché ha osato tradire il potere, viene trattata in un certo modo, mentre invece l'intimità di colui che tradisce o altro non può essere toccata? Era solo questa la domanda. Guardi, Gianluca, mi perdoni, ma non mi pare che l'intimità di chi non può essere attaccato, come dice lei, non venga messa in discussione. Si parla solo di questo, delle presunte alcove di Berlusconi, per cui da questo punto di vista che ci sia, come dire, la volontà, o che ci sia una grande curiosità intorno alla vita privata di Berlusconi, non c'è dubbio, per cui non mi pare al riparo Berlusconi da questo punto di vista. Per la questione di Veronica Lario, Libero ha pubblicato un'intervista a Daniela Santanchè in cui Daniela Santanchè, assumendosi tutte le responsabilità di quello che dice, l'abbiamo anche invitata ma evidentemente non vuole più parlare, sostiene che Veronica Lario ha un amante che è il suo bodyguard. Ci sono smentite, controsmentite, eccetera eccetera. Non ho nemmeno affrontato l'argomento perché non mi pareva il caso. Se c'era la Santanchè a raccontarci perché, sarebbe stato naturalmente un'altra cosa. La ringrazio, però non mi pare, come hanno scritto alcuni giornali, che ci sia il potente e la donna in difesa. Non è questa la situazione, secondo me. Silvia da Milano, buonasera Silvia. Buonasera, io voglio proprio parlare invece di questa cosa della Santanchè che lei ha appena detto. No, non sapevo che voi l'aveste invitata e lei si fosse negata. No, ha detto che stava facendo dei comizi, poi ha detto che aveva altre cose da dire. No, perché io sono rimasta colpita, al di là della notizia, non mi importa nulla, veramente, ma mi ha molto colpito questo agito di una donna contro un'altra donna. E siccome purtroppo non sono nata ieri, mi posso immaginare, visto dove la signora Santanchè adesso si mette, si pone come area politica, si riavvicina, eccetera, poi un po' questo gioco, no, del dico questa cosa perché così la dico io, poi dopo non la smentisco ma non torno a dirla, e poi avrà il suo guadagno, diciamo così. Cioè, l'atmosfera un po' da giardinetti, io li frequento con le mie bambine, un po', sai che quella è col marito di questa, con la zia di quella, con la cugina di quella, così, questa roba così, un po' di infamia. Cioè, mi ha molto colpito che una donna facesse una cosa così a un'altra donna, l'ho trovato abbastanza disgustoso. Per cui Secondo me non è tanto questione di donna, lei probabilmente da donna l'ha vista in questo modo, naturalmente, ed è legittimo vederla in questo modo. Secondo me è una cosa molto grave quella che è accaduta, e per questo volevo chiarirla con Daniela Santanchè. Cioè, capisco che lei ha preso una certa posizione, per carità, legittima, e, come dire, in appoggio in questa guerra assurda di posizionamento, in appoggio a Berlusconi e contro le posizioni pubbliche assunte da Veronica Lario, e questo è legittimo anche per chi fa politica e vuole continuare a fare politica nel PDL come Daniela Santanchè. Poi ognuno ha i suoi giudizi su questo. Però francamente mi sembra una cosa molto, molto forte quella che è accaduta. Cioè, dire Daniela Santanchè che dice Veronica Lario ha un amante, dunque dovrebbe stare zitta perché anche lei ha una sua vita privata, è lontana dal marito, e l'amante è una persona che è nella sua cerchia stretta, addirittura la sua guardia del corpo. Mi sembra veramente una cosa su cui non c'è nemmeno una reazione così forte come mi aspettavo, no Silvia? Sì, no, ma infatti io ho chiamato apposta questa sera perché pensavo, cioè, un po' per dare un eco alla mia indignazione. Cioè, se prima si dice spero mia figlia non faccia la velina, che io poi contro le veline non ho nulla, nel senso che sono, adesso mi viene più da dire speriamo che non faccia la santa anche, ecco, perché trovo che il gesto sia stato veramente di poca classe, ma vergognoso, io lo trovo, da ignoranti, me ne assumo naturalmente, però proprio una roba orribile, una cosa brutta che ha fatto, ma tutta questa storia è una storia che fa piuttosto schifo, per cui, come quelle dei giardini, perché poi è la vita che viviamo tutti i giorni, non è che... Sì, ma in questo caso tra l'altro la cosa davvero non ha alcuna rilevanza pubblica, insomma, ma anche fosse vera, insomma, qual è il punto? Non riesco a capirlo, è veramente una cosa dettata forse dalla volontà di accreditarsi ancora di più agli occhi del Premier, forse questo, Silvia. E, tra l'altro, ricordiamo, mi ricordano dalla regia che c'è una Santanchè durante la passata campagna elettorale, che non è 100 anni fa, ma appena un anno fa, che ne dice di tutti i colori anche sulle donne che girano intorno al Presidente del Consiglio. Sentite. Ho detto che il voto più inutile che si possa esprimere, e mi sono rivolta alle donne italiane, è quello per Silvio Berlusconi, perché le donne italiane devono avere, come sono certa che già avranno, la percezione che per Silvio Berlusconi le donne sono in posizione orizzontale mai verticali. Purtroppo noi donne in Italia non riusciamo ad incidere nelle scelte importanti della politica italiana, perché ci sono sempre solo donne strumento di uomini, ci sono sempre solo donne che sono le donne del capo. Insomma, avete sentito, non so se anche lei ha sentito, Silvia, un anno fa Daniela Santanchè, il voto più inutile per le donne italiane è quello a Silvio Berlusconi. Poi anche lì dicendo che queste donne verticali, no? Cioè, quindi un altro giudizio, cioè poi ognuno fa la sua scelta. Poi in un anno le cose cambiano. 19:45, ci sono 30 secondi di pubblicità, torniamo subito. Eccoci qua, 19:46 quasi, 800 24 00 24. Alessandro da Massa Carrara, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. No, io la seguo da un po' di tempo, sarà un paio d'anni, insomma, da quando è iniziato la parte serale della programmazione. Ma io non ho ancora capito che tipo di giornalismo lei sta facendo, in tutta onestà. Non riesco. Qualche volta me lo domando anch'io. Ecco, meno male, allora magari una risposta in parte, ma riuscirà anche a darmela. Perché in tante occasioni sento dire da lei, o quantomeno percepisco, una tolleranza verso le menzogne che alcuni politici, poi nello specifico parliamo di Berlusconi, insomma, del Premier, da parte sua rivolta. No, guardi, quando io la passata settimana ho detto che la bugia fa parte della politica, non è che voglio dire che sia giustificata, volevo fare un discorso più generale. La politica è fatta anche di bugie, poi naturalmente sta all'elettorato verificare, scegliere, all'opinione pubblica controllare. La politica è fatta anche di menzogne, di bugie, di passi indietro, di promesse mancate. È la politica, insomma, è qualcosa di un po' sporco, succede con tassi diversi, diciamo, di bugie, appunto, in tutti i paesi del mondo. Non c'è nessun tipo di accondiscendenza da parte mia verso questo modo di fare politica, però è così. Io questo senza dubbio, ma mi permette, anche un po' Prego. Banale che lei ce lo venga a dire a noi. Sarà banale, però l'ho detto, sarà banale. Ok, perfetto. Detto, vuole che le dica? No, lei l'ha detto, ma non lo sappiamo. Cioè, vabbè, lei lo sa. Guardi, su questo si sbaglia, perché invece c'è un grande moralismo su queste vicende qua. La politica è fatta anche di cose che si dicono, di promesse che non si mantengono, di piccole bugie, il potere si difende anche in questo modo. Poi, ripeto, c'è il controllo e c'è poi il giudizio degli elettori. Ecco, ma il controllo, visto che non c'è nessuna rilevanza penale, quindi se fosse così ci penserebbe la magistratura, ma quando c'è da controllare se il politico di turno si esprime dicendo la verità più assoluta o meno, chi è che deve fare questo controllo se non la stampa? Mi sembra che in Italia venga fatto questo. L'unico strumento che noi poveri cittadini che non abbiamo altre fonti di informazione se non quelle di cercare di allargare la visione il più possibile dei fatti di tutti i giorni, se non è la stampa deve ce lo dire. Ma guardi, perché questo non accade, mi scusi, non accade, ma non accade questo, Alessandro, mi scusi, non accade quotidianamente, tutto viene insomma, più o meno, io credo, al contrario di quello che sostengono una serie di personaggi in Italia, che invece ci sia un grande controllo sulla... soprattutto da parte della carta stampata, sull'operato dei vari governi, mi sembra, no? È difficile fare questo controllo, perché poi in Italia la burocrazia non è che metta a disposizione tutti i dati. Fra poco ne parleremo con Sergio Rizzo a proposito dei voli di Stato, che intanto saluto. Ciao Sergio, buonasera. Buonasera a tutti. Però insomma questo controllo più o meno avviene, no? Lei non è di questa idea, Alessandro? No, io non sono di questa idea, perché mi mancano riscontri oggettivi, non riesco ancora a vedere da 30 anni a questa parte, da quando ho l'uso della ragione, un'inchiesta che inchiodi da parte di un giornalista o di un giornale o di una redazione, inchiodi un politico. antipatico di fronte alle sue Guardi, lei può dire che poi non ci sono, non vengono tratte le conseguenze di queste inchieste, ma queste inchieste vengono fatte, le cose vengono più o meno scoperchiate da varie inchieste, varie trasmissioni televisive, anche vediamo report eccetera, poi che non ne consegua come in altri paesi, diciamo, il grande scandalo e dimissioni varie e diffuse, questo può essere vero. Un attimo solo, Alessandro, con Sergio Rizzo, che saluto ancora, ciao Sergio. Buonasera. Di cosa parliamo? Dei voli di Stato, perché insomma, i voli di Stato, Sergio Rizzo ha appena pubblicato un libro, Rapaci, il disastroso ritorno dello Stato nell'economia italiana, sempre per Rizzoli naturalmente, è stato uno dei primi capitoli della casta, no? quello sui voli di Stato, e periodicamente nella politica italiana, Sergio, ritorna questo argomento, quello dei voli di Stato. È vero o non è vero, questo ti chiedo subito, che in realtà il governo Prodi una certa stretta l'aveva messa sui voli di Stato, nonostante poi gli scandali che erano scoppiati anche durante il governo Prodi, e che invece da un anno a questa parte, come dire, le briglie sono state di nuovo un po' sciolte? Ma noi sappiamo per certo che sono cambiate le norme, cioè il governo Prodi aveva, sull'onda delle polemiche suscitate dall'ormai famoso viaggio a Monza, dove c'era Mastella ma c'era anche Rutelli, no, per assistere al Gran Premio di Formula 1, sull'onda di quelle polemiche il governo Prodi fece una normativa molto restrittiva che addirittura imponeva ai giornalisti che avessero voluto salire sulle cosiddette aeree blu di pagare il biglietto. Era vietato praticamente ai sottosegretari usare l'aereo di Stato se non per cause di assoluta necessità, e anche i ministri avevano subito delle restrizioni molto pesanti. Alla fine della fiera avevano ridotto le spese di una ventina di milioni di euro, se non ricordo male, però spese che comunque restavano molto, ancora ben più alte rispetto a 5-6 anni prima, no? Testimonianza del fatto che poi in Italia è sempre molto difficile fare degli interventi drastici. Quello che sappiamo, chi ha detto, che l'hanno scritto i giornali, ma l'ha confermato anche Palazzo Chigi, è che nel luglio del 2008 è stata praticamente introdotta una normativa molto meno rigida di questa, quindi è stato ripristinato la possibilità per le persone non appartenenti alle delegazioni di salire sugli aerei di Stato, e questo fa presupporre che ci sia stato un allentamento un po' di questo rigore. C'è stata ieri l'ex presidente della Commissione Difesa del Senato, che del PD, che ha dichiarato che, quanto ne sa lei, le ore di volo del 31esimo stormo, che è quello appunto dell'aeronautica militare che gestisce gli aerei della Presidenza del Consiglio, sarebbero triplicate rispetto al 2008. E noi abbiamo quei dati lì. Purtroppo l'Italia è un paese ben strano, dove è molto difficile avere queste informazioni. Ricordo che quando lavoravamo all'inchiesta che poi è portato alla casta, fu difficilissimo trovare il dato reale di quanto si spendeva, certo, per i voli blu. Fu difficilissimo perché era sparso, no? Il numero esatto era la somma di tanti numeri che erano sparsi in vari capitoli di spesa, alcuni dei quali introvabili, per esempio quello dei voli della CAI, della compagnia aeronautica italiana, non la CAI, quella della Italia, anche se si chiamano allo stesso modo, era quella dei servizi segreti. E con la fine arrivammo a scoprire che in un anno si spendevano 65 milioni e mezzo di euro contro 8 milioni o 9 milioni che spendeva il Regno Unito. Quindi diciamo il paragone era abbastanza eclatante, ecco. Dove può portare secondo te questa attenzione nei confronti dei voli a Villa Certosa del Premier? Cioè, si riuscirà ad accertare davvero se in quei voli sono stati utilizzati per motivi istituzionali oppure no? Ma secondo me non è tanto importante questo, perché diciamo, una volta che si stabilisce una normativa, poi il resto viene di conseguenza. Quindi se si è fatta una direttiva in base alla quale anche gli ospiti possono utilizzare quegli aeroplani, e gli aeroplani, insomma, diciamo lì, secondo me non è tanto importante quello, quanto il fatto che, secondo quello che si capisce, si sta assistendo ad un generale allentamento della tensione sul fronte dei costi della politica, di cui questo è appena una specie. detto. Io invito tutte le persone che hanno un minimo di conoscenza del centro di Roma a fare attenzione al numero di lampeggianti che si vedono per le strade, e già quello secondo me è un dato abbastanza significativo. Vediamo che le spese di alcuni importanti organi costituzionali non sono affatto diminuite come invece era stato promesso, e tutto questo naturalmente ci fa ritornare un po' indietro, no? A tutto quello che si era detto negli anni passati. Sì, è vero, si ha l'impressione che dopo una stagione in cui tutti facevano promesse su un dimagrimento dei costi della politica, questa attenzione non ci sia più, e basta poco poi, no, Sergio, per ritornare ai livelli di spesa precedenti, anche perché poco si è risparmiato nel frattempo. Non si è risparmiato quasi niente, diciamo la verità. Anzi, le spese sono aumentate. Ecco, però la cosa che fa impressione è vedere come da noi questo problema venga vissuto, cioè come se fosse tutto assolutamente normale, è quello che invece accade per esempio nel Regno Unito, dove giusto 10 giorni fa, 15 giorni fa, si è dimesso lo speaker della causa della Camera dei Comuni, che è l'equivalente al nostro Presidente della Camera, investito dallo scandalo delle note spese gonfiate, no? Sì, ieri in un'intervista alla BBC, credo in questi giorni, tra l'altro Gordon Brown ha promesso una riforma seria per quello che riguarda appunto i rimborsi, e possiamo essere sicuri che questa riforma ci sarà in tempi brevi senza troppe discussioni, diciamo. Sì, tenendo presente che loro spendono molto meno di noi e costano molto meno di noi, no? Quindi c'è anche stato chi ha detto, ma tutto sommato sono marachelle giustificate dal fatto che questi guadagnano 2 lire, no? Però ecco, non è soltanto il caso della Gran Bretagna, la Spagna, il governo spagnolo, la prima cosa che ha fatto quando è scoppiata la crisi finanziaria sui mercati mondiali, per dare un segnale, ha ridotto del 10% il finanziamento pubblico dei partiti. Qui da noi non c'è stata neanche una proposta, una rituale proposta di legge, non so come dire. Si batte fino all'ultimo posto per un consigliere provinciale alle prossime elezioni. E perché tutta questa attenzione nei confronti delle elezioni politiche in Italia, in generale delle elezioni anche provinciali? Perché la politica dà da mangiare, tra virgolette, a un sacco di persone, no? Sì, purtroppo è così. Abbiamo calcolato che fra 600.000 e 1 milione sono le persone che vivono intorno al mondo della politica, quindi da questo punto di vista diciamo che rappresenta una parte consistente del PIL italiano, no, la politica, perciò diciamo non possiamo neanche stupirci che avvengano queste cose. Naturalmente ci indigniamo quando poi vediamo che tutto questo comporta, cioè questo è un paese nel quale non si trovano, sinceramente fa un po' impressione che non si trovino i soldi per l'Abruzzo, o che sia difficile reperire i fondi per l'Abruzzo terremotato, e che poi al tempo stesso diciamo non si faccia il minimo sforzo per ridurre i costi della politica. Questo fa veramente indignare, credo. È una cosa che mi ha lasciato francamente così stupito, è stato proprio il fatto che si sta parlando tanto di questa riduzione dei parlamentari. Sì. Io mi sono andato a prendere la briga di guardare che cosa c'è in Parlamento. In Parlamento ci sono già 5 o 6 proposte di legge, alcune delle quali risalgono a oltre un anno fa, ma non sono state neanche incardinate nelle commissioni parlamentari. Sì, è quello che diciamo infatti la settimana scorsa. Ci sono già una marea di proposte di legge, ci sono tutte le possibilità per fare le cose senza annunciarle di nuovo per l'ennesima volta. Ringrazio Sergio Rizzo, buona serata. 19:58 e 25, abbiamo fra pochissimi titoli dei TG, 800 24 00 24. Eccoci qua, 21 minuto, TG5, titoli. Scompare un Airbus dell'Air France in volo da Rio a Parigi con 228 persone a bordo, 10 gli italiani. Mistero sulle cause della tragedia, forse un cortocircuito o un'esplosione. La compagnia, forte turbolenza, poi l'allarme. Messaggio di Napolitano per la festa della Repubblica. Ci vuole un'Italia unita e coesa per affrontare la crisi, e sull'Abruzzo ricostruzione subito. Berlusconi, le sole armi della sinistra sono il gossip e la calunnia, non ha nulla da proporre. Franceschini, dal governo promesse non mantenute. Casini, si parli dei problemi della gente. Per gestire la crisi dei rifiuti a Palermo arriva Guido Bertolaso. Berlusconi garantisce l'impegno finanziario del governo, inchiesta sulle spese della municipalizzata. Sequestrati decine di autovelox in diverse regioni italiane, non erano tarati né omologati, a rischio 82.000 multe per un totale di 11 milioni di euro. Sempre più uomini rischiano una figuraccia alla prova costume, italiani più devoti alla tavola che alla palestra, e a Ravenna centinaia di donne si sfidano nella danza del ventre. Va bene, poi non ho capito questo modo di mischiare le cose da parte di Berlusconi, che dice tutte calunnie eccetera. Veramente sulla questione di Mills, una cosa sono gli editoriali dei giornali, una cosa sono le motivazioni della sentenza della magistratura, è un altro discorso. Poi Berlusconi può pensare naturalmente che queste sentenze siano condizionate da varie cose, i giudici politicizzati, ma non è che si tratta di così di discussioni come nel caso di Noemi Letizia o di gossip. Andiamo a sentire anche i titoli del TG1. 10 italiani tra le 228 persone sull'Airbus Air France scomparso sull'Atlantico, giallo sulle cause, forse una avaria per un fulmine. Festa della Repubblica, cerimonia al Quirinale, riforme e crisi, Napolitano più coesione politica e sociale. Berlusconi, conto di me solo calunnie, stampa straniera insufflata dalla sinistra, Franceschini, il governo non mantiene le promesse. Assalto ad un portavalore a Roma, ucciso un bandito, ferito un altro che si è costituito, caccia ai due malviventi riusciti a fuggire. Autovelox illegali, sequestrati 50 impianti a Camini in Calabria, 700 abitanti e 13.000 multe in un anno. Dirsi di sì con Giulietta e Romeo, a Verona il primo matrimonio sul balcone degli innamorati, e arrivano richieste da tutto il mondo. Va bene, possiamo andare oltre il balcone di Giulietta e Romeo a Verona e tornare dal nostro ascoltatore da massa che ci ha atteso. Alessandro, prego, allora continui. Sì. No, niente, il concetto l'ho espresso. Dico semplicemente che sta alla stampa metterci sempre al corrente della svelare, inchiodare, per usare un termine più concreto, la politica di fronte alle sue responsabilità, a quello che ha detto, a quello che ha fatto, a quello che fa, quello che... Non abbiamo altro modo noi di documentarci per poi andare alle urne e votare con serenità, perché se la stampa per prima ci dice che in parte accetta che possono esserci delle calunnie o delle menzogne in mezzo alla politica, allora decade tutto, cioè non abbiamo più nessun riferimento, non possiamo, anche se lo sappiamo, non ce lo possiamo sentir dire da un operatore della stampa come lei, che peraltro insomma è seguito da milioni di persone, quindi neanche da dire che scrive su un giornale di provincia, ogni sera ascoltato da centinaia di migliaia di persone, non può arrivare un messaggio così, è estremamente demotivante, ci sentiamo soli, non è tollerabile che un giornalista a sua volta tolleri che un capo dello Stato, un capo del governo possa dire anche delle menzogne. No, Alessandro, io non ho detto questo, ho detto semplicemente che a meno che uno non voglia evitare di non guardare in faccia la realtà, che la politica è fatta anche di bugie, di demagogia, la metta come crede, non di menzogne. Su le menzogne di solito si pagano in politica, si paga tutto poi, però c'è anche questo, non è accondiscendenza, non prendo una posizione politica, sto facendo, mi rivolgo a lei Alessandro, sto facendo un discorso più generale, un discorso di sistema che riguarda il modo in cui oggi la politica comunica in tutto il mondo. In tutto il mondo la politica comunica attraverso spesso messaggi demagogici in cui c'è sempre un pizzico di esagerazione e dunque di menzogna, o no Alessandro? Sì, però qual è il limite oltre il quale deve intervenire il giornalista, la redazione, la stampa per mettere in piazza tutte le nefandezze di questa politica? Qual è il limite? Il limite sotto il quale si tollera, oltre il quale no? Non va posto un concetto di non deve esistere. Cioè, un giornalista come un medico non è che incrocia le braccia di fronte a una malattia che sa che sicuramente porterà alla morte il malato, fa di tutto per cercare di quantomeno di indurre il minore, la meno sofferenza possibile. Insomma, io non mi sento di avere un compito da questo punto di vista, mi scusi Alessandro, non penso di avere un compito particolare. Questa è la missione, è per quello che dico sono un po' disorientato finalmente. Ma io non penso di avere un compito particolare, penso di condurre una trasmissione, punto e basta, di esprimere le mie idee, di far esprimere agli altri le proprie idee, di confrontarle, di invitare qualche ospite, di presentare quelle che sono più o meno le notizie del giorno secondo l'informazione italiana e di sentire soprattutto le vostre opinioni, questo è il mio mestiere. Senza dubbio, lei infatti conduce una trasmissione molto valida, ma nei termini di sollevare delle questioni. Poi se la mia idea è quella che non mi scandalizza, ci sono poche cose che mi scandalizzano in politica, sarò fatto così, sarò diventato nel tempo molto cinico, forse è questo Alessandro. Disincantato, ma non se lo può permettere. Può darsi, no, ma invece io penso che il essere disincantati e essere un po' distaccati sia il modo migliore per osservare la realtà. Però insomma, ripeto, anche qui siamo dipende dai punti di vista, non è la mia non è mancanza di tensione, ecco, il mio distacco è semplicemente un distacco perché penso che col distacco e non con la passione da tifosi si possa osservare le cose in maniera più corretta. La ringrazio molto, pubblicità, torniamo subito. Eccoci qua alle 20:10, 800 24 00 24. Andiamo a provincia di Perugia da Maurizio, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Senta, dunque io telefono riguardo la questione tra Franceschini e Belpietro. Io volevo sottolineare una cosa che non è stata sottolineata. Cioè, il dottor Belpietro, oltre a essere un giornalista a tutti gli effetti, quindi cercherà di esprimere le sue opinioni, è anche, oltre che dipendente di Berlusconi o quantomeno ha un rapporto di lavoro con Berlusconi, è anche... diciamo, ha un rapporto di lavoro anche con l'attuale Presidente del Consiglio. Cioè, c'è una situazione di conflitto di interessi in atto che viene normalmente ignorata, perché siamo in una specie di democrazia fantasma, però c'è ed esiste. E Belpietro sta lavorando, il rapporto di lavoro tra Belpietro e Berlusconi è viziato dal fatto che Berlusconi è anche Primo Ministro. Non è solo suo datore di lavoro. Io credo che questa sia una cosa che vada sottolineata, non è una cosa secondo me che va ignorata. Cioè, bisogna dire c'è una valenza in più, non è un datore di lavoro qualsiasi, non è, come lei ha detto nei scorsi giorni, nei giorni scorsi, il datore di lavoro di un manovale, quindi un impresario edile che ha sotto di sé un manovale o un muratore. Lei però mi scusi, ho capito quello che vuole dire, ho già risposto giovedì scorso su questo ai diversi ascoltatori che mi facevano osservare che c'è una differenza tra un normale datore di lavoro e un datore di lavoro che è anche il Presidente del Consiglio, la sua obiezione è questa se non sbaglio, no? Esatto, sì. Il punto però non si riferisce all'anomalia Berlusconi in quanto tale che abbiamo più volte sottolineato. La questione è nell'atteggiamento che il leader dell'opposizione ha nei confronti di Maurizio Belpietro e nei confronti di Carlo Rossella. Per sminuire quello che dicono davanti ai tre spettatori usa una tecnica che è quella di demolire le ragioni dell'avversario in quanto dipendente di qualcuno e dunque meno credibile. Il punto è quello, non è tanto discutere se è anomala o meno la posizione di Belpietro che è dipendente di Mondadori e dunque del Presidente del Consiglio, quelle sono cose che sappiamo e a me personalmente quando parla Belpietro non me ne importa assolutamente nulla. Il discorso c'era in discussione l'atteggiamento del capo dell'opposizione, questo era il punto. Puntini sulle i, nel senso che comunque. Ma sì, ma quello che lei sta dicendo è ovvio, è così. Cioè, l'abbiamo detto più volte, dobbiamo ripetere, dobbiamo iniziare la trasmissione dicendo c'è un'anomalia Berlusconi nella politica italiana. Questo lo sappiamo. Maurizio Belpietro è dipendente di Mondadori e dunque dipendente anche indirettamente, diciamo, di Berlusconi. Lo sappiamo. Detto questo, la discussione che facevamo la passata settimana riguardava l'atteggiamento del capo dell'opposizione però siccome Maurizio Belpietro non può essere ristretto o Carlo Rossella solamente al fatto che è dipendente alla vicina di Berlusconi è uno che ha anche le sue idee mi sembra, no? Allora siccome lo invitano nelle trasmissioni parla e può parlare, ha diritto a parlare, non credo che le sue idee siano viziate dal fatto che sia dipendente o meno di Berlusconi, questo è il punto. In discussione c'era l'atteggiamento del capo dell'opposizione. Si parlava di questo, non si parlava dell'anomalia Berlusconi e dell'informazione, o no? Vabbè, viene aiutato comunque il capo dell'opposizione da questa situazione. Ovviamente Viene aiutato in che senso? Mi scusi. Viene aiutato nel suo atteggiamento, nell'atteggiamento che tiene nei confronti dei giornalisti che sono dipendenti. Ma no, è una tecnica molto chiara, la si è vista in azione la scorsa settimana e l'altra settimana ancora prima, cioè quella di interrompere o comunque prima di un discorso dire attenzione, se, per chi non lo sapesse, questo è dipendente di Berlusconi. Una cosa perché altri giorni ho sentito che faceva una specie di intervista ai vari ascoltatori. Ma quello era un gioco, quello era un gioco per prendere in giro l'atteggiamento di Franceschini. Sì, però ok, è andata via. Via. Grazie. Grazie a lei. Buonasera. Andrea da Modena, buonasera. Andrea da Modena. Buonasera, buonasera. Eccoci, dica. Ma io ho ascoltato questo dibattito e non ne posso più. Io sono un elettore di sinistra. Sì. Storico. Ho avuto anche qualche responsabilità politica a sinistra, ma non ne posso più di questo dibattito su Noemi o come si chiama quella ragazza. Ritengo invece che sarebbe giusto, opportuno, importante che la sinistra attaccasse sul piano politico, cioè facendo delle proposte sui problemi che ci sono oggi, con la crisi, con coloro che vanno in cassa integrazione, con le banche che non danno finanziamenti alle imprese. Ecco, su questo secondo me bisogna confrontarsi. Non me ne importa assolutamente niente con chi abbia rapporti Berlusconi, assolutamente non mi guardi, importa. Guardi, Gad Lerner, che è uno dei, diciamo, degli intellettuali di ambito, diciamo, io lo apprezzo molto, una persona che stimo moltissimo, legato al Partito Democratico, legato nel senso elettore del Partito Democratico. In Italia quando si dice legato sembra una prigione, non è così. Scrive oggi sul suo blog che invece il problema è un altro. È emerso, grande come una casa, il disprezzo per la donna mercificata e sottomessa in proporzioni non paragonabili a quelle vissute negli altri paesi occidentali da parte di Berlusconi. E non c'entra nulla la relazione privata fra Berlusconi e sua moglie, né le loro eventuali storie sentimentali nell'ambito di un matrimonio in crisi. È emerso, grande come una casa, il disprezzo per la donna mercificata e sottomessa in proporzioni non paragonabili a quelle vissute negli altri paesi occidentali. Per coprire questa ovvietà il potere ha fatto ricorso a bugie via via svelate e subito occultate. Cioè questo è in ballo secondo Lerner. Lei non condivide? Più totale. Cioè la mercificazione della donna non l'ha inventata Berlusconi, tra l'altro. Berlusconi si compiace di questo e questo è condannabile, certo, ma non è condannabile sul piano politico, è condannabile sul piano etico, che a me interessa relativamente poco. Cioè Berlusconi, a me interessa che risolvi i problemi del paese. E allora, i problemi del paese sono ben altri che non quelli di Noemi o di non so chi, ecco. Io ritengo, guardi, mi ha offeso molto di più il mio, come dire, più vicino a me, Cofferati. Cofferati qualche tempo fa disse che si ritirava da sindaco di Bologna in quanto voleva stare vicino a suo figlio, non so se ricorda. Sì. Poi dopo è stato candidato dal PD a livello europeo, quindi andrà a Bruxelles con la probabilità che sì, se sarà votato, sì. Sì, ma è capolista, quindi è molto probabile che ci vada. Bisogna prendere i voti. Comunque è giusto. Ecco, io credo che quello sia veramente offensivo, nel senso che come si fa a usare il figlio per non candidarsi come sindaco ancora a Bologna e poi dopo quindi ho capito, per non esporsi. Un attimo solo, c'è il traffico, poi torno con lei, Andrea. Bene, 20 18 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Intanto l'Air France comunica che è stata localizzata la zona della catastrofe, una zona circoscritta con un'approssimazione di qualche decina di miglia nautiche a metà strada tra le coste brasiliane e quelle africane. Ci sono le scatole nere Argos a bordo dell'aereo che possono emettere segnali per diversi giorni e consentire il reperimento. Dunque, secondo l'Air France è stata localizzata la zona della catastrofe. Intanto non è ancora chiaro il numero dei morti italiani, perché la Farnesina conferma 10, mentre prima abbiamo sentito dall'Air France che gli italiani a bordo sarebbero 9. Questa è la situazione sul gravissimo incidente aereo di questa notte. 20:19, ripeto, Francesca da Biella, buonasera, poi Paolo. Francesca, buonasera. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Io ho diversi amici in Europa e come me, come lei, come tutti gli italiani, hanno visto le fotografie del presidente Berlusconi con il fazzoletto aperto e un dischetto per darsi il fondotinta. Io sempre, pur non amando assolutamente il Presidente del Consiglio, ho sempre difeso l'Italia con tutti i miei amici. Le assicuro che dopo aver visto quelle fotografie e dopo le pesanti ironie dei miei amici europei e americani, non ho più il coraggio di difenderla. È assolutamente ridicolo, è pietoso. Ma come fa un Presidente del Consiglio a aprire un fazzoletto e far vedere che c'è un dischetto del fondotinta? Ma io chiedo a chi supporta Berlusconi, indipendentemente in conflitto di interessi, non ha nessuna importanza, come si fa a supportarlo ancora quando è caduto così nel ridicolo come col dischetto del fondotinta? Ma guardi, il dischetto del fondotinta invece può essere una cosa, mi scusi, ci sono molte cose forse più gravi se uno le vuole scegliere, se uno vuole andare a vedere, ma il dischetto del fondotinta mi sembra anche una cosa molto umana, se lei vuole, è molto comune, insomma. È vero che molto comune naturalmente per chi vuole presentarsi in pubblico in un certo modo, magari un errore di comunicazione, qualcuno non l'ha consigliato bene. Berlusconi è fissato con il fondotinta, con l'apparire, dunque può essere, è stato colto proprio in un momento in cui si faceva un po' il make up, ma insomma non vedo dove sia il suo stupore, non lo capisco. Non lo capisce? Allora, scusi, sa, se lei vedesse Obama con il fazzoletto del fondotinta che si mette a posto, lei direbbe, oh che bello, ma è proprio... No, ma io ho visto quella foto lì, è certamente un errore di comunicazione, quello che vuole, di immagine, non è che ne esca benissimo, però insomma, non mi pare una cosa di cui scandalizzarsi, ecco, insomma, non lo so, non mi pare una cosa per cui scandalizzarsi. Forse il cucù alla Merkel è una cosa un po' più non proprio ortodossa per quello che riguarda i vertici internazionali, no? Non crede? Prego? Il cucù al cancelliere tedesco mi sembra una cosa un po' più... Quello fa parte comunque delle cose che a me, avendo 50 anni quasi, non piacciono proprio, però il fatto di far vedere il Presidente del Consiglio, non un attore, non il signor Cruciani o la signora Francesca che si dà il fondotinta durante una conferenza stampa, dottor Cruciani, ma andiamo, è il Presidente del Consiglio. Io voglio essere rappresentato da una persona che non si mette il fondotinta. Che non si mette il fondotinta, adesso insomma, è venuta fuori anche questa, le persone che non vogliono essere rappresentate da chi si mette il fondotinta. Guardi che il fondotinta se lo mettono un po' tutti i politici, magari Berlusconi da questo punto di vista esagera, ma insomma il fondotinta magari se lo mettono dietro le quinte, non davanti alle telecamere o davanti ai fotografi, però se lo mettono tutti il fondotinta. Francesca, si metta l'anima in pace. Io vorrei vedere cosa direbbero tutti i sostenitori del Presidente del Consiglio se Obama, non voglio fare pesanti ironie, non ne ha proprio bisogno. Facciamo per esempio Sarkozy, fosse lì col dischetto per darsi il fondotinta, per l'amor di Dio. Vabbè, Francesca, ognuno viene colpito, il mondo è bello appunto perché le opinioni e le indignazioni sono le più varie. Lei è molto imbarazzata da questo fondotinta. Io sinceramente ho visto la foto, ho sorriso e poi sono andato avanti. La ringrazio. Maurizio Pellegrino, consigliere comunale del Partito Democratico a Palermo, per parlare di cose molto più importanti. Che sta accadendo, Pellegrino? Che disastro sta accadendo, che la città è invasa dai rifiuti. Dice che non basterebbero nemmeno 10 giorni se intervenissero, non so, ma io questo non lo so. Ma come mai si è arrivato? Situazione. Solo per questioni sindacali si è arrivati a questa situazione? No, non c'entra affatto le questioni sindacali, c'entra il fatto che abbiamo l'azienda della raccolta rifiuti che è al disastro. E purtroppo è un disastro annunciato rispetto al quale non si è intervenuto in tempo. È almeno da 2 anni che si sa che perde una barca di soldi. Circa 3 milioni e mezzo di euro al mese, addirittura è intervenuto lo Stato con una legge speciale che ha dato 80 milioni all'AMIA. Non è bastato tutto questo non è bastato perché non si è intervenuto sulle cause, diciamo, del dissesto, dell'allegra amministrazione. Anzi, abbiamo avuto l'occasione di cambiare consiglio di amministrazione proprio nel dicembre dell'anno scorso e anche questa volta è stato lottizzato. È messa una redattrice, una persona che ha nel suo curriculum, diciamo, come unica attività quella di aver fatto la redattrice al vicepresidente di un'azienda di 2800 persone, sono state messe altre 2 brave persone, insomma, ma che non hanno alcuna competenza a dirigere questa azienda. Il direttore è stato rimosso solo 2 giorni fa a seguito dello scandalo di viaggi Allegri a Dubai. Senta, però diciamo dal punto di vista contingente, perché scioperano i dipendenti dell'AMIA? Sentiamo Sky, scusi un attimo Pellegrino, sentiamo Sky. Sono dati alle fiamme come è successo nei giorni passati e come è successo anche questa notte, decine gli interventi dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno anche arrestato due persone bloccate a Pallavicino, alla periferia nord di Palermo, con in mano una bottiglia di liquido infiammabile e stavano per appiccare il fuoco ad un cumulo di immondizia. Per il momento da Palermo è tutto, la linea può tornare allo studio. Vabbè, questa è la situazione descritta da Sky. Allora, io voglio capire una cosa, Pellegrino. C'è però una situazione contingente che dipende dal fatto che i dipendenti dell'AMIA non vogliono lavorare perché non ci sono i mezzi adatti. Qual è il motivo? Ma guardi, i mezzi adatti non c'erano neanche prima e lavoravano. E poi è arrivata la proposta da parte del sindaco di aumentare la TARSU, sì, cioè la tassa sui rifiuti. E la cosa che devono sapere i cittadini italiani è che già a Palermo si paga tre volte che a Milano o a Bologna. Vabbè, c'è un tasso di evasione molto alto. No, ma il tasso di evasione, ma sì, ma il problema è che quelli che pagano per tre volte. Sì, certo. E quindi rispetto a tutto questo è stata usata come una clava la minaccia sui lavoratori. E quindi da lì poi è nata questa protesta. Quindi diciamo che la protesta in qualche modo è iniziata anche in modo abbastanza pilotato per operare una pressione sul Consiglio Comunale che era restia ad aumentare la tassa dei rifiuti. E quindi questa gente diciamo che è stata scaricata contro il Consiglio Comunale. Ora la cosa è un poco sfuggita di mano perché a furia di gettare lì allarmismi sul futuro occupazionale di questa gente, se non fosse stata aumentata la tassa sui rifiuti, poi alla fine questi non rientrano. Giochi però di potere anche intorno ai dipendenti dell'azienda. Certo, dire che c'è un problema che è sindacale, cioè il problema nasce ed è legato all'aumento delle tasse, alle minacce. Quella è un'azienda che ha 900 persone in più, noi l'abbiamo documentato, è stato pubblicato su tutti i giornali. E 900 persone in più? 900 persone in più, lì praticamente sono stati stabilizzati tutta una serie di precari, sì, che erano a carico dello Stato con un programma assistenziale, si chiamava Lavori Socialmente Utili, e sono stati stabilizzati mettendoli a carico di queste società. Berlusconi dice che è successo durante l'amministrazione Orlando. No, durante l'amministrazione Orlando è stato fatto un progetto nazionale, diciamo, di assistenzialismo per questa gente. Gli chiamano 800. Insomma, l'hanno fatto un po' tutti, da Orlando in poi. No, ma il problema è che Orlando conosceva e pagava lo Stato. Cammarata ha pensato bene di stabilizzarle ai fini elettorali, si è triplicato il costo perché prima avevano un assegno, un sussidio di 800 euro al mese, stabilizzandoli sono diventati lavoratori dipendenti di una SPA con un costo di 2.000-2.500 euro al mese e quindi il costo si è moltiplicato. C'è del vero nel dire che lui se li è trovati, ma questa non è la verità, nel senso che poi lui li ha stabilizzati e li ha resi interni all'azienda. Sì. E poi se mi consente, cioè, il costo di questi lavoratori stabilizzati di circa 20 milioni di euro l'anno, il deficit è di 36 milioni di euro l'anno, quindi lì evidentemente c'è qualcosa in più, c'è stata una conduzione dissennata dell'azienda sulla quale ci sono già dei rinvii a giudizio da parte della magistratura per falso in bilancio e ora l'indagine anche sulle trasferte allegre negli Emirati Arabi. Senta, com'è possibile mandare in bancarotta un'azienda per la nettezza urbana? Io credo che sia ci vuole una certa pervicacia, insomma, a un certo punto. Devo dire che ci vuole anche bisogna proprio dedicarsi in modo particolare perché a Milano, a Varese, io parlo di realtà anche governata dal centrodestra, sì, guadagnano una barca di soldi con il ciclo dell'energia, che è la nettezza urbana, il gas, l'acqua, ma lo stesso con giunte di sinistra, diciamo a Torino, a Genova, e qui queste aziende sono state trasformate in carrozzoni clientelari, la produttività è bassissima. Io ho elaborato dei dati che sono stati ripresi un poco da tutti sulla produttività. La produttività è un terzo di quella che ha Torino, la metà di quella di Genova. E quindi abbiamo molti più dipendenti e molta più spazzatura nelle strade, perché queste aziende evidentemente più che a servire a raccogliere la spazzatura servivano a raccogliere i voti per chi li governava di volta in volta. Senta, ma tutte quelle cose che si leggono su queste 22 missioni per andare a esportare il modello Palermo e vediamo che modello, diciamo, a Dubai, ma sono tutte vere queste cose sugli hotel di lusso, le aragoste, i pranzi, oppure restano ancora accuse da provare? No, non sono cose vere, sono il frutto di un'interrogazione che ho fatto, sono state fornite delle carte proprio dall'azienda, quindi noi abbiamo le fotocopie, diciamo, di questi viaggi allegri che venivano fatti e c'è anche un'indagine della magistratura che già stamattina ha annunciato di aver sequestrato le carte. Cioè è possibile mai che il responsabile di un'azienda municipale vadano a spendere 500 euro in un ristorante ad Abu Dhabi? A me sembra una cosa che è fuori dal mondo. E ma loro l'hanno fatto e non c'era chi li controllava. Lì sono delle responsabilità sia a livello politico da parte di Cammarata, sia ma anche a livello del revisore dei conti, cioè non si capisce come possa avvenire. Quando già l'azienda, va di bene, perdeva già 3 milioni e mezzo di euro al mese, questi andavano lì, andavano a far bagordi con i soldi pubblici sostanzialmente. Addirittura risulta che qualcuno di loro era presente in più di un albergo la stessa notte. Quindi evidentemente facevano poi dei viaggi all'interno di queste trasferte, non neanche si premuravano di disdire queste suite che andavano via via prenotando. Va bene, la ringrazio molto Pellegrino, buona serata. 20 e 30, con qualche secondo di ritardo la borsa, 800 24 00 24, tra poco. Eccoci qui, 20 e 34, 800 24 00 24 per chiamarci. C'è Paolo da Macerata, prima però i titoli del TG2, se ce l'abbiamo. Tragedia nell'Atlantico, disperso il volo Air France Rio Parigi con 228 persone a bordo, fra queste almeno 10 italiani, ancora mistero sulle cause. Il capo dello Stato nel messaggio alla vigilia del 2 giugno chiede più coesione politica e rispetto per le istituzioni per superare la crisi e fare le riforme, ricostruzione rapida in Abruzzo. Berlusconi al TG2, la sinistra ha sostituito i programmi politici di cui è del tutto priva con i pettegolezzi stile novella 2000, Franceschini accusa, promesse elettorali non mantenute. Un rapinatore morto e uno ferito che poi si è costituito nel tentativo di assalto a un furgone portavalori a Roma, ferita una delle guardie giurate che hanno reagito, fuggiti altri due banditi. Rivelazione shock del fonico di Jimi Hendrix, l'icona del rock, morto nel 1970 per overdose in circostanze mai chiarite del tutto, sarebbe stato avvelenato con un cocktail letale dal suo manager che temeva di essere licenziato. Eccoci qui, il TG2 chiude giustamente su Jimi Hendrix e andiamo a Macerata. Paolo, buonasera. Buonasera. Niente, dottor Cruciani, io mi stavo chiedendo ultimamente se noi italiani forse non siamo un branco di fessi grandissimi, perché il dottor Berlusconi non perde occasione di ripeterci che tutte le disgrazie che gli capitano, quindi la moglie che si lamenta pubblicamente di quello che lui fa, i giornali inglesi che lo attaccano, i giornali italiani che cercano insomma di parlare un po' della sua vita privata, è tutta colpa della sinistra. Lui dice tutti i giorni insomma che la colpa è della sinistra. Allora mi chiedevo, ma se questi della sinistra sono così bravi, dei geniacci che riescono a diciamo portare dalla loro parte la moglie addirittura, i giornali inglesi, i giornali italiani, cioè sono delle persone che hanno una capacità notevole di organizzazione, quindi potrebbero essere degli ottimi governanti, come mai non gli diamo la maggioranza? Vede, mi scusi il sarcasmo. No, ma lei ha ragione Paolo, tutto questo qualche volta assume i toni del ridicolo, dare sempre la colpa a qualcun altro, evocare sempre un complotto, una cospirazione dietro la realtà che è quella di un uomo politico che ha fatto della sua vita privata sempre una bandiera da esporre, da esporre anche nella vita pubblica. Infatti, appunto, le dicevo, secondo me il dottor Berlusconi ultimamente sta arrivando al patetico, e tenga presente che io parlo, anche se non sono un elettore di destra, da vecchio tifoso milanista, per cui cioè, lo ringrazio. Vabbè, adesso Milan non c'entra niente in questo caso. No, nel senso, cioè, non sono uno di quelli di sinistra. Ho capito, se mettiamo in mezzo pure il Milan, lei vuole dire non è un anti-berlusconiano viscerale. Lei. Esattamente, però ecco, diciamo, ritengo che sia un po' patetico. Poi, se mi permette una considerazione su una cosa che ho sentito dirle circa mezz'ora fa, quando stavo in preascolto, quando quel signore che ha tirato fuori gli argomenti di circa 15 anni fa, che lei le ha detto, cioè, ma non sono più d'attualità. Sì, è vero, effettivamente magari non sono più d'attualità, però mi chiedevo, vale la pena parlare solo delle cose dell'attualità? Perché sa, l'attualità di solito va dietro alla moda, e se la vita civile è basata solo sulla moda, insomma, la cosa è un po' banale, insomma, cioè tante volte anche le cose che non sono più d'attualità però hanno un fondo di verità che magari non è stato perfettamente scavato. Sì, Paolo, lei ha ragione, in linea di massima è così. Altrimenti bisognerebbe parlare solamente della strettissima attualità senza rispolverare problemi antichi, però insomma francamente una discussione su Berlusconi, i perché della sua discesa in politica eccetera eccetera eccetera, mi sembra, e anche la compatibilità o meno, l'anomalia Berlusconi, mi sembrano problemi un po' superati dopo 14 anni e non so quante elezioni politiche alle spalle. Questa è la mia idea. Pierluigi da Brescia, buonasera. Buonasera. Prego. Ok, capisco che sto guidando, mi fermo. E niente, io le telefonavo perché mi stimolava questo argomento dei costi della politica, perché a me era capitato un episodio curioso. Stavo viaggiando in... Sì, Pierluigi, se lei abbassa la radio sentiamo, o la spegne, sentiamo tutti meglio, grazie. Stavo viaggiando in treno da Brescia a Verona e mi era capitato di trovare una persona seduta appunto sul posto che avevo prenotato. La faccio sentirmi alzare e questa persona mi sembrava anche di conoscerla. E dopo un po' questa si libera un posto di fronte a me, questa persona si torna a sedere di fronte a me e sento che parla con il suo vicino di posto che lo chiama Marco, e a questo punto realizzo che effettivamente avevo riconosciuto questa persona, che era l'onorevole Marco Follini. Tutto questo per dire che ci sono anche persone che fanno politica anche ad alto livello, vicepresidente del Consiglio, che viaggiano tranquillamente in treno, in seconda classe, non è stato mangiato, anzi ho avuto anche l'occasione di intavolare una discussione con persone che probabilmente non erano il pubblico selezionato dei suoi meeting, delle sue riunioni. Sì, immagino che fosse nel momento in cui Follini non era vicepresidente del Consiglio. Era deputato della Repubblica Italiana. Di maggioranza comunque. Sì, no, voglio dire, Pierluigi, non è così strano che ci siano politici che viaggino in treno, eh? Come posso? Non è che capita molto spesso, di trovarne così tanti, comunque più spesso si vede altro, insomma, non se ne parla. Cioè, come viaggiano? Mi scusi, non è che viaggiano tutti con gli elicotteri dell'aeronautica militare, eh? Moltissimi politici, magari si può discutere sui viaggi, sul rimborso dei viaggi, queste cose qua. Magari molti viaggiano in aereo, però insomma ormai le differenze tra aereo e treno sono piuttosto minime dal punto di vista dei costi. Ma moltissimi anche consiglieri regionali viaggiano con l'auto blu, vorrei dire, ecco. Poi c'è anche l'auto blu, certamente, ecco. Si potrebbero diminuire, non c'è dubbio, no? Per lui dice, ma chi viaggia in treno ha sempre il mio apprezzamento. Da questo era punto solo per dire che c'è anche un altro modo di comportarsi. Più sobrio di intendere la politica, certo, non c'è dubbio. Cioè, esiste, appunto, e secondo me però non è raro, non è così raro trovare politici, come lei può invece pensare, politici che viaggiano in treno, che insomma che hanno una vita normale come tutti noi, senza auto blu, senza aerei di Stato. Non è così lontana questa realtà. Lei non crede? Infatti, ma io volevo semplicemente segnalare che questo c'è, e volevo anche dire che secondo me dovremmo essere noi elettori ad apprezzarlo. Assolutamente, sono d'accordo. Se noi apprezzassimo un po' di più chi prende la metropolitana, chi prende il treno, chi prende il tram, chi vive in mezzo a noi, probabilmente questo tipo di scandali si risolverebbero da soli, fondamentalmente. Vero, vero. La ringrazio molto, Pierluigi, buona serata. Andiamo a Roma da Giovanni con interventi più brevi perché ci avviamo verso la conclusione. Giovanni, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Senta, io volevo portare la discussione su un'altra cosa, sul terremoto. Che c'è da dire? Anch'io sono un terremotato, mi definisco di serie B perché, come da adesso tutti quanti, faccio parte di quella categoria dei non residenti, anche se praticamente vivevo lì, sì. Quindi ho subito tutta la settimana del terremoto. Cioè alla seconda casa? Ah, o aveva la seconda casa? Sì, una piccola seconda casa, sì, vabbè, come migliaia di altre persone. Sì. Il fatto è questo, che per noi delle seconde case praticamente fino adesso non c'è nessun finanziamento. E questa praticamente, per carità, innanzitutto gli abitanti che hanno molto più bisogno di noi, questo è ovvio, però noi con le nostre seconde case, se lei immagina, siamo migliaia, quanto paghiamo? Moltiplichiamo lisci le tasse e poi tutto l'indotto, gli artigiani vivono con noi, i commercianti vivono con noi. Giovanni, lei ha perfettamente ragione, se vuole riprendiamo quando ci sarà più tempo nei prossimi giorni l'argomento. Certo che ogni terremoto porta con sé anche queste cose qui, non è a costo zero, non è che tutto si ristabilisce così perfetto come prima, purtroppo in questo momento vengono in una situazione difficile dal punto di vista finanziario, vengono prima quelli che hanno appunto le prime case, insomma, chi deve abitare in quelle case là. Mario da Roma, buonasera. Ah, buonasera Cruciani. 20 secondi, 30 secondi al massimo, Mario. Finalmente una filtrina è riuscita a passarmi. Niente, io volevo parlare della trasmissione e del suo disincanto. La trasmissione è bella, però è di parte, punto. Volevo dire solo questo, posso provarlo. Lei affermò una volta che teneva sull'armadio, sul comò, il santino della Thatcher, e questo risulta poi dalle trasmissioni in cui lei parla di Mario, spiegato. Mario, ci vogliamo sentire domani, che è meglio, così discutiamo anche di queste cose che credo non interessino moltissimo agli ascoltatori. Però va bene lo stesso. Alle 20.44 dobbiamo chiudere per questa sera. La Zanzara at radio24.it. Ci sentiamo domani, anche il 2 giugno, in diretta a 18.30. Radio 24. La passione si sente.